Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, buongiorno e bentornati sulle onde di Radio 24 e questa è Voice Anatomy. Sono le 14:40 in questo momento. Oggi è domenica 5 novembre, lo sapete, noi cominciamo sempre ricordando chi nasce in questa giornata e ci ha regalato qualcosa di importante con la sua voce e non solo, anche con il corpo ovviamente. Oggi, fra i tanti, Bryan Adams, c'è Sam Shepard, tante persone nate il 5 novembre, ci sono due cantanti, uno un cantautore italiano, l'altro americano. Io volevo presentarvelo così, lui è Pierangelo, era, ma è e sarà sempre Pierangelo Bertoli, che è nato a Sassuolo il 5 novembre del 42, e lo sapete perfettamente, è un grande cantautore. È considerato un vero e proprio cantastorie, non nel senso che racconta fandonio, ma cantastorie di una volta. Una voce sincera della sua terra, autodefinendosi artigiano della canzone. Egli fu una figura proprio emblematica della canzone d'autore italiana degli anni 70 fino ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock, con testi diretti e densi di riferimenti sociali e anche politici. E io voglio salutarlo così. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la seta alla terra che è viva e invece le porta la morte perché è radioattiva, eppure il vento soffia ancora. Spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle. La guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora. Spruzza l'acqua alle navi, sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne, scompiglia le donne fra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi. La bellezza di questa canzone che regge in tutti i modi, la puoi declinare come vuoi, anche in un musical e funziona. Grazie Pierangelo, grazie davvero. Ma oggi, come dicevo, è anche la festa di un altro grandissimo, Arthur Ira Hart Garfunkel, nato a Forest Hills il 5 novembre, sempre, del 41. È un cantautore e attore statunitense, celebre in particolar modo per essere stato parte, lo sapete, in coppia con Paul Simon, dello storico duo Simon e Garfunkel. Incontra il suo futuro compagno di duo, Paul Simon, alle scuole elementari, pensate, tra il 56 e il 62. E i due si esibiscono con il nome di Tom e Jerry. Beh, il resto È storia. E allora questa storia la vogliamo raccontare. Vogliamo raccontare The Sound of Silence, perché la canzone è rappresentativa di questo duo straordinario, anche di Garfunkel, e poi in antitesi con la nostra trasmissione che è Voice Anatomy, e questo invece è il suono del silenzio. E vicino a me già mi ha raggiunto il nostro primo grandissimo ospite, attore e doppiatore Manuel Meli, al quale ho sottoposto immediatamente, senza dirglielo, il testo in italiano di The Sound of Silence, e poi, come abbiamo fatto per Pierangelo Berto, ce lo assaporiamo anche in originale. Manuel, mi raccomando, proviamo. Sei giovane, ma ormai c'hai un'esperienza troppo lunga alle spalle. E allora, grazie. Ciao oscurità, vecchia amica mia. Sono venuto per parlare ancora con te, perché una visione, strisciando senza far rumore, ha sparso i suoi semi mentre stavo dormendo. E la visione, così piantata nel mio cervello, rimane ancora nel suono del silenzio. In sogni irrequieti vagai da solo per viottoli di acciottolato. Sotto la tenue luce di un lampione rivoltai il mio bavero per il freddo e per l'umidità, quando i miei occhi vennero trafitti dal flash di una luce al neon che lacerò la notte e toccò il suono del silenzio. E nella luce nuda vidi 10.000 persone, forse più, gente che comunicava senza parlare. Gente che sentiva senza ascoltare, gente che scriveva canzoni che nessuna voce avrebbe mai cantato, e nessuno osava disturbare il suono del silenzio. Sciocchi, dissi io, non sapete che il silenzio si espande come un cancro. Ascoltate le mie parole, così che io possa insegnarvi. Prendete le mie braccia, così che io possa raggiungervi. Ma le mie parole caddero come gocce di pioggia silenti ed echeggiarono nel prorompere del silenzio. E la gente si inchinò e pregò il dio Neon che aveva creato, e l'insegna saettò il suo avvertimento nelle parole che si stavano plasmando. E le insegne dissero: le parole dei profeti sono scritte sui muri della metropolitana e nei corridoi delle case popolari e sussurrate nel suono del silenzio. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night, touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing. Devo dire che anche in italiano raccontata così funziona, ma che belle parole, non ci avevo mai fatto caso, sai, perché uno canta le canzoni in inglese, certo, le canta magari con un'assonanza, però non è che pensi tanto bellissima. Beh, bella anche la tua interpretazione, caro Manuel Meli, eccoti qua, tu sei troppo giovane. Ho 22 anni. Sì, no, e dai, Manuel, vedendo quello che hai fatto ce n'hai molto di più, infatti sono molto contento poi di dare voce a questi giovani attori doppiatori, anche il contest che voi sapete perfettamente sta andando avanti, dove Manuel mi darà una mano ad ascoltare. Volentieri. Altri 6 giovani che vorrebbero intraprendere questa carriera di base attori, attrici, mm-hmm, ovviamente, certo, e poi anche doppiatori. Vi ricordo i nostri numeri di telefono 349-238-6666 se volete intervenire, come fate sempre, i vostri sms. Ringrazio dall'altra parte del video la nostra tecnica del suono, Oggi femmine, anche la scorsa settimana a me ha fatto fuori Alessandro, Valerio, tutti, ha preso il suo posto e via. Saluto Milano, la nostra messa in onda, sempre molto attenti. I miei autori, capoprogetto Alessia Navarro e Mauro Meconi, grazie davvero. E allora, caro Mauro, tu nasci a Roma il 25 marzo del 95. Sì. Hai iniziato a doppiare all'età di 7 anni. Sì. Hai prestato la tua voce, ovviamente poi lo scopriremo, per il cinema, la TV. Hai vinto vari premi del doppiaggio, hai vinto il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, che si terrà a Roma nella 9ª edizione il 23 novembre, questa volta all'Auditorium Renzo Piano, Parco della Musica, Sala Sinopoli. E vogliamo dare la possibilità a 100 di voi, perché è un posto meravigliosamente grande, di dare la possibilità a 100 innamorati del doppiaggio a partecipare, perché non è una serata dove si paga, è una serata di gala, gran gala, e per cui vogliamo dare la possibilità a 100 di voi, ascoltatori di Voice Anatomy, la possibilità di partecipare attivamente alla festa del doppiaggio. Per cui, lo sapete perfettamente, abbiamo un sito che è Voice Anatomy su Facebook, dove lasciate ogni volta i vostri file per partecipare al nostro contest, e stavolta vogliamo anche che lasciate, se volete partecipare, il vostro nome, cognome e numero telefonico. Sarete ovviamente contattati dalla Ince Comunica, che è la società che si occupa dell'organizzazione del premio, ma ve lo ripeterò. Caro Manuel, hai vinto tante cose, a 22 anni sei già fra i doppiatori più interessanti dopo... Senti, a 7 anni, sì. Come è successo? Chi ti ha invogliato? Chi ti ha detto? Mamma faceva doppiatrice? No, papà faceva doppiatore? No, nessuno nella mia famiglia appartiene a questo ambiente, a questo mondo. Anche tu sei un figlio d'Artri. Sì, figlio d'Artri. Benissimo. Io ho iniziato perché appunto all'età di 7 anni, assistente al doppiaggio che conosci anche tu, che è Elena Masini. Sì, e sappiamo di chi è la colpa. Okay. Mi contattò perché già ci conoscevamo in modo esterno al doppiaggio e servivano dei bambini per un film con Eddie Murphy che era L'asilo dei papà. E quindi mi ha chiesto se volevo partecipare a questa prova voce, un provino che andò bene, quindi il mio primo film fu L'asilo dei papà. E chi poi era la direzione? Tonino Accolla? No, Marco Mete. Marco Mete. E Tonino era già... c'era ancora. E quindi da lì ho iniziato con questo film. Con quello, e non ti sei più fermato? No. Ti è piaciuto immediatamente? Anche perché, ecco, se uno comincia da bambino nel mondo del doppiaggio può magari bypassare certe regole che invece sono basilari, quello di studiare dizione, recitazione, impostazione della voce, che un bambino non ha spugna, come un bambino quando nasce in rabbia sodita parla arabo perfettamente perché gli parlano da quando è piccolo in quel modo. Tu il tuo linguaggio l'hai imparato davanti a un microfono immediatamente, non ti sei più fermato. Senti, te l'aspettavi però di arrivare a 22 anni già con carnet di voci importanti? Sinceramente no. Infatti sono molto contento e sembravi un calciatore adesso quando parlavi. Me l'hanno detto anche esatto. Che sembro De Rossi quando parlo. È vero che c'ha la voce De Rossi. Attento. Pure i stessi piedi, Pure dai, a Madonna. Sei alto un metro. Quanto sei? 1,90 m. Un metro e novanta. Sento, quando stavo in allegio con te è un macello. Perché il microfono per te c'è un motivo di essere, per me no. Tanti illustri colleghi certo, si sono messi sul panchetto. Hai capito? Meno male che si doppia in colonna separata. Senti, anche tu fai parte del Trono di Spade. Sì. E sei Jack Gleason. Sì. Io, visto che abbiamo alcune clip, me ne sentirei. Noi abbiamo la nostra una, ce ne sono 4. Bene. E sentiamocene una. La prima. Vai. Mia madre vuole che lo lasci andare coi guardiani della notte. Privato di titoli e poteri, servirebbe il reame in esilio permanente. E la mia Lady Sansa implora clemenza per suo padre. Hanno il cuore fragile come tutte le donne. Fino a quando io sarò re, il tradimento non resterà mai impunito. Ser Aelin, portami la sua testa. Ammazza, eri antipatico davvero. Laziale era, penso. Non era, come laziale? Ma che dici? Ma guarda che sta la trasmissione va in tutta Europa. Allora, tu eri quel re antipatico, sì, terrificante, sì. E poi, ringraziando, si può dire che è morto, no? È morto, sì. È morto, si può dire, che siamo arrivati a 7. Credo che ormai tutti abbiano visto quella scena, insomma. Mamma mia, ti ho odiato fortemente. Lo so, non come mi uomo. Sono odiato. Veramente. Poi hai fatto queste cose veramente importanti. Sentiamo un altro momento del Trono delle Spade, dai, che è molto affascinante. Vai, eccolo qui. Non sul volto, che resti bella. Non ti sembra un po' troppo coperta? Alleggeriamola. Se vogliamo che Robb Stark ci ascolti, dobbiamo essere spietati! Mamma mia, fai un'espiazione. No, è vero, quando uno... La fortuna che abbiamo di fare questo mestiere è che riusciamo a esorcizzare la parte nascosta di noi che esiste. Sì, sì. Esiste, però la sfoghi all'interno del film. Poi è bello far parte di questi, di queste saghe importanti, cioè le Cronache di Narnia, Hunger Games, li fatti tutti praticamente. Sì, sì, anche se insomma la cosa bella è che ammetto che non conoscevo né nei libri del Trono di Spade né quelli di Hunger Games. Fammi la domanda se io conoscevo tutti i libri del Signore degli Anelli? No. Quando mi hanno detto tu sarai il re degli uomini. Ma dai. Ah, meno male. Allora vuol dire che rimango fino alla fine, quello è stato il pensiero. Certo. Allora doppierò anche gli altri due. Non è che sono andato oltre. Poi ovviamente mi ha affascinato quel mondo, ma leggere Tolkien deve avere una vita libera, insomma, in qualche modo. Ho preferito doppiarlo così almeno so la storia come è andata. E per cui anche Trono di Spade, le Cronache di Narnia, Noi siamo infinito, film bellissimo. Bello, sì. Bello, veramente bello. Dopo ce ne ascoltiamo un momento. No, non ce l'abbiamo. Ma tu fai no, tutto con fatto noi. Noi siamo infinito, noi siamo tutto. Cioè, sì. Tu con noi prendi noi tutto, sì. Noi siamo infinito, no. Tutto, metà. Esatto, ma no, ma poi voi giovani, ormai c'è la nascita di nuovi attori che sono, che hanno l'età tua. Mm-hmm. Per cui noi diventeremo quelli anzianotti che voi prenderete in giro perché non ce la faremo a emettere le consonanti nel modo giusto. La dentiera, senti Pinozzegno, si sente la dentiera, senti. Però madonna, tu ricordi? Peggiorato. Io spero che tu abbia, manco te posso menare perché sei gigantesco, no. Sei gigantesco, però il Trono di Spade io mi rifinirei, cioè, abbiamo quattro clip, vabbè, perché veramente, chi l'ha visto poteva anche scriverlo, quanto avete odiato quel personaggio, ma veramente, ho dovuto aspettare sì, anch'io. No, ma è una cosa. Quando è morto, te. Oh. Santa miseria. Sentiamoci la terza clip di questo disgraziato. E quindi che ne sarà di questo traditore, vostra grazia? Mia madre vuole che lo lasci andare coi guardiani della notte. Privato di titoli e poteri, servirebbe il reame in esilio permanente. E la mia Lady Sansa implora clemenza per suo padre. Hanno il cuore fragile come tutte le donne. Fino a quando io sarò re, il tradimento non resterà mai impunito. No, questo l'abbiamo sentito. Volevamo vedere, sì, in effetti, essendo tanti le clip, la terza clip, riusciamo... È quella? Sentiamo. Tanto è sempre antipatico, anche qua. Ho pensato di fare in un altro modo. Questa è nuova. Mary. Non sul volto. Che resti bella. Non ti sembra un po' troppo coperta? Alleggeriamola. Sì, no, dobbiamo risentirle tutte? Ma sono tutte... Sono tutte queste? Sono uguali? Io parlo dall'altra parte del vetro. Sono quattro le clip che abbiamo scelto, no? E abbiamo scelto la prima, la seconda, la terza, la quarta, ma sono identiche. Questa è un'altra. Aiutami, Manuel. Sì, mi sa che questa era un'altra. Eccola. Sì. Alza. Un giorno sarà la tua regina. Non ti interessa il suo onore? La sto punendo. Per quali crimini? Lei non c'entra nulla col fratello, idiota. Non puoi parlarmi in questo modo. Un re fa quello che vuole. Il re folle faceva quello che voleva. Va bene. Insomma, comunque ci siamo. No, in effetti forse si accavallavano le nostre. Poi tutto in diretta, ringraziando il cielo. Sono le 14:18:30. Secondi, Manu, arriva qualcuno e dice: ma Manu non è così antipatico come il personaggio. No, grazie, vi ringrazio. No, è enorme, ma non è antipatico. Uno deve purtroppo essere quello che è, quello sullo schermo. Certo. Più cattivo di questo l'hai fatti mai? No. Poi sempre buoni, perché noi siamo infiniti, è una bellissima cosa. Sì, non abbiamo la clip, ma non un cattivo, però ad esempio una serie, Bates Motel, sì, che è il prequel di Psycho, quello non era cattivo, però era matto, insomma. Quindi... Mamma mia. Senti, tu si dice spesso che i giovani non hanno disciplina per fare questo lavoro, no? Non è vero, secondo me. Qual è il tuo approccio a questo lavoro? Come ti prepari prima di un provino, oppure prima di un film, eccetera? Tu entri e vai, oppure... Diciamo che innanzitutto è fondamentale ascoltare comunque le direttive e i consigli del direttore del doppiaggio. E poi la cosa, secondo me, fondamentale all'inizio è quella di vedere più scene per entrare bene nel mood e nel carattere del personaggio. Tu preferisci sapere come va a finire, oppure preferisci scoprirlo strada facendo come personaggio? Perché rischia... Sì, solitamente... Per me, uno... io rischio di sapere come finisce, per cui sei tu l'assassino, va a finire che strada facendo lo doppi come se fosse, sì, già l'assassino. Sì, infatti, se non lo sai, strada facendo, scoprendolo insieme è meglio. È meglio, no? Sì. Anche per te. Come salvaguardi la tua voce? Ma salvaguardo la mia voce stando attento, insomma. Allo infatti, stadio, ad esempio, se vado ad un concerto allo stadio, non canto, non faccio cori. Dice, ma perché viene quell'uomo triste? Ma che sta a fare? Ha segnato la sua squadra e lui non. Non hai il coraggio di dire esatto. La sua squadra. La sua squadra, il rispetto. Si vive in una società multilaziale, sì, lo dico sempre, sì. Qui c'è un rispetto delle nostre squadre. Va bene. I numeri di telefono io li ho già ricordati, però se vuole il mio capo progetto li ricordo ancora. 349-238-6666. Uno, tanti complimenti. Io leggo anche le cose non positive. Certo, però ci mancherebbe. Complimenti, va bene, noi li ringraziamo, sono sempre molto attenti i nostri radioascoltatori. Senti un po', io me ne sentirei un'altra cosa, questo Noi siamo tutto, che altro bel film, Noi siamo infinito, mi sento proprio di coinvolgervi nella scelta di guardarlo, perché sono film che uno magari passa inosservato, invece sia per una persona grande, ma soprattutto per un ragazzo, per un adolescente, Noi siamo infinito è veramente un bellissimo film. Vi apre le porte del cuore, fa capire tante cose. Io certi film li inserirei anche nelle scuole, no, nelle scuole medie, nel liceo, perché... per far capire la diversità, che cosa significano certe cose. Tramite un film si può veicolare sì, meglio. Anche perché soprattutto in questo caso è un film in cui secondo me si possono riconoscere tanti ragazzi. Eh sì, proprio tanti. E noi invece, Noi siamo tutto, com'è la storia? Noi siamo tutto è un film più leggero rispetto a Noi siamo infinito. È una storia d'amore tra questi due ragazzi. E questa ragazza sta male, quindi ha una malattia, non ha sviluppato tantissimi anticorpi, quindi la paura che ha lei, la paura che ha la madre è quella che appena esce di casa prende una terribile... Devo dire che tutti questi film adolescenziali c'è sempre qualcuno che c'ha una malattia brutta. Sì. Poi arrivo io, che sono il nuovo vicino di casa, e scombussolo un po' la vita. Scombussolo la vita, ma tanti film così, anch'io La lacrimuccia, Io prima di te, quell'altro, I sogni dei cari, quelle sì. Stelle. Film, colpa delle stelle. Colpa pure. Delle stelle, quello l'hai fatto? Sì. Tutti malato pure. Tu eri malato a colpa delle stelle. Cioè qui non sei malato, lì sei, almeno alterni. Sì. Però non è male questo fatto. Infatti c'è sempre qualche problema, sanno? Qui c'è questo problema di antico. E qua non c'ho... Bene, tutto cominciò con i passi dell'amore? Sì. Sì, cominciò tutto lì? Sì. Ah, quando è cominciato con i passi dell'amore? Tu infatti sei fatti tutti questi film? Più o meno. Se c'è da soffrire, chiamate Emanuele Meli. Sì. Anzi, c'è una malattia, chiamate Emanuele Meli. Se salva da sta malattia, chiamate un altro. Esatto. Sentiamoci allora un momento di Noi siamo tutto, dove doppio Nick Robinson, vai. Che stai facendo? Mi sto avvicinando a te. E va bene? Sì, va bene. Ok. Dovrei dirti che non è il caso di rischiare, ma non posso farlo. Non voglio farlo. Sei sicura? Sì. Ciao, piccolo principe. Ehi, so. Che belli, questi. Guarda, metti a questa musica. Questo film ha una colonna sonora bellissima. Veramente bella. Bello davvero. No, io poi mi lascio veramente trasportare quando capitano queste cose. Però non doppio mai un film d'amore. Santa miseria, tutti te li fai. E tu fai tutti ma i matti cattivi. I matti cattivi, assassini, mamma mia. Come su Baby Driver, bello speciale. È vero. Tu Baby Driver ci hai lavorato pure tu, sì, facevi sì. Lui. Facevo Baby, che tra l'altro è lo stesso attore appunto di Colpa delle Stelle. Esatto, è vero. Io facevo il povero Jamie Foxx, che non diciamo che va a finire pure lui. È vero, ma non ci incontriamo mai col fatto che uno doppia certo. Sempre in colonna separata, anche se no mi rovina il microfono. Cioè devono cambiare, tocca a Manuel, tira sul microfono. Te un cappino, a metti il banchetto. No, ti prego. Senti, qui abbiamo un sacco di giovani che stanno tentando questa strada, che mi sembra giusto dare questa possibilità, visto che ormai le serie doppiaggio cominciano a diventare come i tornelli allo stadio, cioè di avere ad essere del doppiatore. Manca solo la perquisizione. Esatto, ad essere del tifoso, dobbiamo lasciare i telefonini, perché sennò uno spoiler. Ma santa miseria, un po' troppo, mi sembra un po' troppo. Però ringraziando il cielo, la Warner Bros. Si è resa disponibile in questo contest, poi sarà la volta, spero, può parlare con un'altra casa distributrice molto importante, dà la possibilità a 2, 3, 4 di loro di poter far parte di un film. Tanto c'hanno l'età tua, per cui a me non me ne frega niente, sono sereno, no. Devi preoccuparti tu, ma no, c'hanno tutte le età, da dopo 18 anni, però devo dire che molti sono giovani ovviamente, per cui Manuel mio, tu fisicamente puoi fermarli in qualche modo. Senti, come direzione di doppiaggio invece ti è mai venuto lo scribizzo? L'hai fatto? Ancora non l'ho fatto, però è una cosa che mi piacerebbe tanto, riuscire comunque a dare... Preferisci stare dietro, davanti? No. Che non vuole essere allusione sessuale, no, insomma. Sono due cose... Non è il momento poi storico. Sono due cose diverse, però sono secondo me ugualmente belle, insomma. Sì. Un'esperienza che vorrei fare, prima o poi. Dai, voglio vedere poi se mi chiami, se c'è un vecchietto che si sente la dentiera, eccetera, perché altrimenti per te il doppiaggio è finito. Finisce qui. E allora... Senti, siamo... Insomma, sono giovane, io sono contento. Tu, insomma... Ti riconoscerai un po' in loro, insomma. Sì, poi questa, sì. L'occhio della tigre, come dice il buon vecchio Rocky Balboa, non va mai perso. Il momento che entri in sala o entri su un palcoscenico. Teatro, a proposito. Teatro, io io sono stato per 4 anni a Lucca, in occasione del Lucca Comics and Games, dove insieme ad altri colleghi abbiamo fatto una manifestazione che si chiama Voci di Mezzo, dove facciamo per un'ora delle letture inerenti sempre al mondo del cinema, fantasy, quindi fantasy. Trono di Spade, Harry Potter. Però mercoledì 1 novembre ho fatto il mio debutto teatrale, recitando, quindi muovendomi e anche imparando a memoria le mie battute. Oh, abbiamo fatto muovendomi e imparando a memoria, un mondo nuovo. Abbiamo fatto, e soprattutto con la gente che ti vede, esatto. E non ti sente soltanto. Esatto, col coraggio di mostrare, quando non visto fisicamente, se però come dice cane, però non si smomenano. E abbiamo fatto Corto Maltese, una ballata del mare salato. È una sensazione indescrivibile, bello, perché poi quando è finito lo spettacolo, e al di là dell'adrenalina, ma insomma, vengono fuori tutte le emozioni atto. Che magari per un periodo avevi magari messo da parte. Non bisogna mai dimenticarlo, il corpo è fondamentale, lo devi mettere anche quando doppi, però poi te lo dimentichi e fai in minima parte quello che fa l'attore che vedi sullo schermo e ti perdi gran parte del tuo movimento, che invece non bisogna mai mollare. Poi il teatro è veramente 10 persone, 1000 persone, quello è tutto il mondo. È tutto il mondo, ed c'è un gioco emozionale, c'è un rapporto d'amore. È proprio un atto sessuale col pubblico. Infatti, quando si chiude quel sipario, a me dispiace sempre, come se tu avessi fatto un amore con una bella donna e lei se ne va col taxi. No, rimani qua a dormire. Sono romantico. Non mi va che tu te ne vada così. Va bene, siamo arrivati alla fine di questo blocco. Tu ovviamente rimani qui, non ti muovere. E noi torniamo fra pochissimo. Radio 24, Voice Anatomy, perché la trasmissione è appena cominciata. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, le 14:32 primi e 54 secondi per testimoniare la nostra diretta, sempre Manuel Meli al mio fianco, ovunque, visto che tu occupi 33 metri quadri della tua stanza. E i rumori di fondo di il doppiatore li sente mentre sta doppiando? Sì, noi no, sì, no, sì, si sente, non sono i rumori di fondo, è la colonna internazionale, si chiama così. Esatto. Dove tu senti la musica, gli effetti e anche la voce originale che ti accompagna, anche perché non è che ci danno il copione prima. No. Lo leggi lì e ti fai trasportare. Siamo sempre abituati ad avere qualcuno nelle orecchie. Sì. Qualcun altro nelle orecchie. Poi siamo abituati con mamma, papà, insomma, gli strilli. Abbiamo il primo ragazzo, visto che deve tornare nella sua patria. Torino. A Torino devi prendere l'aereo. 5:10. Vabbè, no, ma c'è da pure il numero del volo. E allora giustamente gli diamo la possibilità anche davanti a Manuel. Poi ovviamente non decideremo soltanto noi, ma ci sarà il gruppo della Warner che deciderà poi le finali. Vi ricordo che, anzi ve lo dico per la prima volta, il 26 chiuderemo il contest e poi per le prossime due puntate ci saranno i 12 finalisti, 6 in una puntata, 6 nell'altra. E il 17 dicembre, di fronte alla capo edizioni della Warner e della Columbia, Anna Laura Carani, che tu conosci perfettamente, si deciderà le persone che faranno parte del cast di questo film e l'inizio, lo start-up, magari della possibile carriera, come è cominciata per tutti. Chissà. Hai visto mai? Intanto, come ti chiami? Edoardo Zappoli. sei di Torino. Torino, 19 anni. 19 anni. Attento. Attento Manuel, 19 anni. Il grosso di me. Sì, ma non so che ve danno da mangiare ultimamente, cioè, il mondo sta andando a rotoli davvero, avete mangiato delle cose strane. E Alessia Navarro forse ha passato, mi guarda. No, vabbè, passiamo al nostro capoprogetto, vabbè, non vuole sentire parlare di se stessa. E ti piace, tu stai già studiando? Sì, sto studiando recitazione e doppiaggio all'ODS. Dov'è? A Torino? Torino, ovviamente. Con Gianni Gaude e Lucia Valenti. Ok. Sto seguendo questo percorso da ormai 2 anni, sono all'ultimo. E poi si spera di far iniziare con casting, qualche brusio, entrare nel mondo. Ma che scherzi, una volta c'erano molti più brusii perché si faceva la colonna internazionale, non c'era, perché dovevi dire caffè, grazie, insomma lo sappiamo. Però insomma sì, assolutamente devi continuare a studiare, perché poi il doppiaggio è come essere un chirurgo, dove hai fatto ogni medicina giorno. E poi insomma puoi fare il chirurgo. E che tipo di cinema ti piace? I film drammatici, quelli che fa Manuel, dove si sì, muore. Sì, sono un tipo un po' drammatico, però non mi dispiace anche il comico e l'azione. Ok, insomma tutto. Sì, sì. Il tuo film preferito? Film preferito? Allora, al momento La forza del guerriero. Ah. Che riprende la storia di questo ginnasta che ritrova se stesso grazie a un maestro che lui chiama Socrate. È uscito il film, sì? Sì, sì, è molto vecchio, sì. Non mi ricordo, forse... La forza del guerriero. Mi sfugge. Vabbè, strano. Insomma, noi siamo dei non cinefili, ma dei cinofili in questo cinofili, caso. Sono dei, siamo due cani. E che cosa hai portato? Oggi porto Will Hunting. Ah, Genio Ribelle. Sì. La parte di Matt Damon e di Ben Affleck. No, la parte iniziale in cui quando parla con il tipo con la coda. Prima parte del film. La prima parte del film. Sì. Hai una musica di sottofondo? No, o... nessuna. Nessuna. Nessuna. Un minuto, tutto per te. Ripeti nome, cognome e il titolo del pezzo. Va benissimo. Vai. Edoardo Zappoli, Will Hunting. Spiegami perché questa convinzione. Sei uno studente del primo anno. Hai appena finito di leggere qualche storico marxista. Pete Garrison, magari. Ne sarai convinto fino al mese prossimo, quando arriverai a James Lemon. Poi mi parlerai di quanto l'economia della Virginia e della Pennsylvania fosse imprenditoriale e capitalistica nel 1740. Ti durerà fino all'anno prossimo, quando arriverai a rigurgitare Gordon Wood, parlando della, sai... dell'utopia pre-rivoluzionaria e degli effetti formativi sul capitalismo e della mobilitazione militare. Bene, questo è Manuel, voce fresca. Voce fresca. Attenzione. Giovincello. Attenzione. No, senza giudicare. Non va assolutamente non va assolutamente bene. È vero che non va bene. C'è molto altruismo. Il tuo, non sarà mai il tuo insuccesso il mio successo per Manuel, capito? Sì, sì, assolutamente. Vabbè, però dai, mi sembra 19 anni è... Siamo giovani, sì, siamo giovani ancora. Però, dai, è io non salita. Voglio giudicare. È un bel viaggio, però non ci fermiamo. Mai. Mai, assolutamente. Mai. Noi siamo infinito. Guerrieri. Guerrieri, noi siamo guerrieri. Come diceva John Wayne, ricordati ragazzo, quando ti alzerai una volta di più di quelle che sei caduto, allora sarai un vero uomo. Verissimo. Allora scappa, vai all'aeroporto. Va benissimo, grazie mille. No, grazie a te. Comunque già la tua presenza a Radio 24 mi sembra... Onorato. No, siamo noi onorati di questa vostra grande voglia che mettete in questo mestiere, perché va fatto da persone che hanno la voglia di farlo, non la voglia di arrivare, non di avere il successo, non di essere famosi, ma la voglia di essere dei bravi professionisti. Poi, se le cose combaceranno, viva Dio, certo. Altrimenti si può fare ugualmente. Va bene. In bocca al lupo. Grazie mille. Digli di andare piano con l'aereo, che è sempre brutto. D'accordo. Si è scurito il cielo. In bocca al lupo. E allora, carissimo mio, ne vogliamo... No, ne ascoltiamo gli altri. No, andiamo avanti con il nostro Manuel Meli, anche perché le partite devono ancora cominciare. Stai tranquillo. Sì, ma no, sono tranquillissimo. Ma non è vero. Ma non mi interessa niente. Dopo il pareggio dell'Inter che hai saputo... Non mi importa del calcio, non seguo. Sembra vero. Ti sei presentato che ho la stessa voce di Daniele De Rossi. La stesso tifo di Daniele De Rossi. Sotto c'ho la maglietta da Roma. La maglietta da Roma. Ma l'ho detto, io accetto, io sono circondato. Sì, i miei autori, capoprogetto, sono circondato. A Roma sono circondato. Rispettoso. Ma è un bellissimo campionato, non voglio togliere la parola a tutti i convocati che viene dopo di noi, che saluto e abbraccio fortemente. Prima finivamo quando loro cominciavano, adesso finiamo un po' prima e non ho il piacere di condividere con loro l'inizio e la fine dei risultati, che io spizzavo come al poker adesso, certo. Perché non li sapevo, stando qui non li so. sappiamo soltanto quello dell'Inter perché ha pareggiato 1-1 e questo riapre, no? Non riescono a perdere. No, allora, però il sogno si riapre, sì, perché sì, insomma, sì. No? Guarda, andiamo a finire a parlare di calcio, no, no, guarda infatti, come va a finire. Infatti basta. Mi sentirei un'altra cosa, mi parli di questo Fury dove doppi Logan Lerman, che cos'è Fury? Fury è un film di guerra. Eh sì, con, bellissimo, Brad Pitt. Con Brad Pitt e Logan Lerman è lo stesso attore che ho doppiato in Noi Siamo Infinito. E, rivedo... Comincia a fare la raccolta dei personaggi, sì. Li mettiamo da parte, questi ha visto, magari cresceranno, si moltiplicheranno. No, più che altro perché comunque sono attori giovanissimi ma bravissimi, quindi Il vostro futuro è quello. Io mi tocca seguire ormai i cinquantenni, quindi lei sperando che facciano sempre più film. È un bel film di guerra e sì, si incentra sulla figura dei soldati che sono veterani e la figura di questo ragazzo che era un dattilografo e si ritrova a dover combattere anche lui i tedeschi, e solo che appunto una guerra non sua. Esatto. E allora ascoltiamolo un momento di Fury. Vai. Spara a quei crucchi a sinistra, li vedi? Vedo soltanto dei cadaveri. Come lo sai che sono morti? Sei un dottore! Spara! Ma loro sono morti, perché devo sparare se sono già morti? Così non si rialzano e non ci attaccano sul treno! Non toccarmi, cazzo! Spara! Cazzo! Io non ce la faccio più a stare qui, cazzo! Non ce la faccio più! Spegni l'interfono se proprio devi urlare in quel modo. Ci penso io, capo. Io mi arrendo, cazzo. Io non ce la faccio più a stare qui. Non dire queste cose. È il nostro dovere. Ragazzi, fuori a combattere. Ok, andiamo. Sto bene. Sto bene. Bello. Bello. Che poi non è assolutamente facile. Voi dovete sempre immaginare chi ci sta ascoltando e che ama questo mestiere. Che insomma lui stava in una sala di doppiaggio al buio e non stava dentro un carro armato o stava combattendo realmente, per cui ridare questa emozione, queste grida, questa emozione di questo ragazzo che si sta perdendo in una guerra non voluta, paura di morire, di non tornare, e devi raccontarla stando magari a via dei medaglie d'oro. Esatto, proprio là era. Esatto, immaginavo, mi sentivo la voce dell'amico Sandro Cervo con la Sefit. E non è facile di avere una capacità di empatia molto, no, infatti, molto forte. Una cosa che dico spesso bella del nostro mestiere è che magari all'interno di una giornata fai cose completamente diverse, magari magari al primo turno Fury, al secondo Phineas e Ferb, un cartone animato che facevo. Phineas e Ferb, Geoffrey, chi c'ha un figlio lo sa. Che serie stai interpretando in questo periodo? Dunque, adesso... Senza dire come vanno a finire, che no, sei pazzo ci arrestano. Dunque adesso comincia una nuova serie della Fox che si chiama Snowfall e parla insomma dell'inizio dello spaccio importante di cocaina in California. Beh, dopo Breaking Bad e Narcos, esatto. Insomma ci sta pure questo. Tu sei uno fatto o uno che fa fare gli altri? No, no, io non nessuno dei due. Nessuno dei due, sei mai tranquillo. Fatto uso di niente. No, tu scemo, no, Manu, nel film. No, no, io sono uno che fa spaccia. Che spaccia, insomma, diventi ma un po' sporco. Sì. A quale altre serie sei affezionato di quelle che hai fatto? Il Trono di Spade sicuramente, insomma, anche sì, se il personaggio era negativo fra i negativi, però anche di quella cui sono più affezionato perché ci sono cresciuto è Zack e Cody, prima il Grand Hotel e poi Zack e Cody sul ponte di Comano, quelle serie sulla Disney andavano, sì, sì, no, sul Disney Channel, dove chi ha dei figli lo sa, insomma. Interpretavo Cody e quella sì, mi è rimasta nel cuore perché appunto avevo iniziato da pochi anni e poi per uno dei primi protagonisti insomma per 8-9 anni poi l'ho seguita, quindi qual è stato lo sliding doors, come chiediamo sempre, come Marzullo? Qual è stato il momento in cui hai capito ok, farò questo mestiere grazie a questo film, ha dato la possibilità? Ma in realtà anche se ero molto piccolo cioè quasi subito, perché comunque inizialmente lo si vede come un gioco, certo, e così deve essere sempre. E infatti quello che infatti mi ha anticipato è una cosa che secondo è un mestiere che per carità comunque ti retribuisce, però non deve essere visto solo ed esclusivamente come una forma di retribuzione, perché io credo che ci sia sempre da imparare e infatti ringrazio tutti i giorni, adesso non so chi devo ringraziare, però i direttori di doppiaggio che magari lo ringraziano che, insomma di poter continuare a far parte di questo mondo. Ma sta a noi sì. In tutti i campi sta sempre a noi, insomma, farsi amare, porsi davanti a quel microfono, davanti una cinepresa, di fronte a una macchina da scrivere, di fronte a un computer, di fronte a un tavolo operatorio, come se fosse la prima volta. Eh sì. Quella è la cosa più importante. Mi ricordano di ricordare, ma non ce n'è bisogno, Voci nell'Ombra, che è un altro grandissimo festival di doppiaggio, che è una manifestazione dedicata al doppiaggio, inventata da un amico, non soltanto Claudio Giffava, ma anche Bruno, che la inventò tanti anni fa, e manca anche lui. Claudio Giffava ci ha salutati in un'età, tra virgolette, più giusta di quella di Bruno, che invece ci ha salutati troppo presto. Ma noi ricordiamo tutti quelli che fanno grandi un mestiere, tutti quelli che sono stati carini con tutti, insomma, è giusto ricordarli e farli sentire ancora vicini a noi. E allora resti ancora qui con noi, tanto manca un quarto d'ora ancora alle partite. Aspetto. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, 14:46, primi e 45 secondi, sempre Manuel Meli al mio fianco, nonostante i 22 anni. Quanti film hai doppiato finora? Hai fatto un computo? Un po', eh? Preciso, non lo non so. Non li conti. 500, dice Mauro Meconi. Quali 500? Ma sono tantissimi. Doppiati io 500. La doppia di Pino 500. Ma no, tra serie e tutti 500? No, tra serie e tutti, no, sono pochi 500 secondo me. Sono pochi 500. Signori, battete quest'uomo. No. Sono entrati altri due pretendenti al titolo, tutti poi giovani, anche se lui ha un po' di barba, lei no, ringraziando il cielo. Come ti chiami? Frate? Antonino. Frate Antonino. Ti chiami Antonino? Antonino Saccone, sì. Saccone, dove sei Antonino? Di Bagheria, Palermo. Sì, no, conosco perfettamente. Poi oggi vengo da Ragusa, dove ieri ho fatto uno spettacolo, stamattina ero già a Roma. Ottimo, di qualità. No, Ibla non conoscevo, la città vecchia di Ragusa. Una meraviglia, neanche tu. Neanche io. Ma dai! Cioè, la Sicilia è una meraviglia, non voglio nulla togliere a questa nazione meravigliosa. Da una parte all'altra ci sono quei ci sono. Quei che portano un pezzo del Padrino. 400 chilometri. Ho capito, ma si fanno per vedere Noto, per vedere questi posti. Io sono stato quest'estate in provincia di Noto, bellissimo, Marzamemi. Sì, lì sembra di, puoi mangiare i palazzi, sembrano i marzapane. Poi si mangia leggero da voi. Sì, sì. Niente, una cosetta proprio, sempre dietro. Non capisco per quale motivo. Dici, di solito c'è sta il mito che il bagno va fatto dopo tre ore. Là non te lo Dici, ma io vorrei un pezzo di pane. Pezzo di pane, ce lo porto io, eh? C'è una cosetta nostra rustica di Ragusa che è molto buona, ma guarda, una cosetta di ma per cominciare è una cosa, la focaccia non si chiama focaccia ma scaccia ragusana, beh, c'è dentro, c'è la pasta asciutta, il prosciutto, il fornaio, lui, sì, tutto. Ma meravigliosamente buono, ovviamente. Ma non è per cominciare. E poi dice Pino, adesso fa una bella caponata prima. Ma la caponata? Ma io... E poi spaghetti con i porcini che sono arrivati adesso. Freschi, come non dire di no. Perché si offendono. Una bella spremuta di melograno, ce la facciamo. Ma detto, mio, poi cominciamo a mangiare. Ma come poi cominciamo a mangiare? Abbiamo finito di mangiare. Così è stato. Sono andato in scena ieri, sembrava Aldo Fabrizi. Quando adesso cominciamo il tuo spettacolo. Capito? Una cosa brutta, ragazzi. No, una meraviglia. Poi non puoi dire no. No. Poi in gelatino non te lo fai? A granita. Una granita no, ma hanno dato 28 gusti. Il fatto che ti conoscono, ci tengono a farti assaggiare tutto, ma anch'io, ma è tanto. Anche perché poi la granita dentro la brioche. Esatto. La mattina che te la fai, hai otto una brioche con dentro una granita di limone. Dai! Te la fai su. Perché un cannone, ho portato due cannoli a mia moglie stamattina, cioè. Ci mangia tre giorni, non c'è la ricotta, c'è pure la pecora, cioè non si capisce. Sta diventando la radio di Fiorello, va bene. Allora, questo anche per distendere gli animi dei nostri amici. Caro Antonino, da Bagheria, tu fai recitazione, immagino stai studiando. Sì, ho cominciato col teatro. Quanti anni hai? 25. 25. Ho cominciato col teatro, certo, a Bagheria Palermo e poi sono venuto nella grande città. Invece bisogna, so che anche, è piena di vita quella regione meravigliosa, sì, stanno anche nascendo delle accademie sane, mi auguro anche che i forti restino anche lì, certo, cioè bisogna costruire anche sul proprio posto natio, ovvio, serve, c'è tanta gente bellissima, meravigliosa, che non deve essere costretta per forza a lasciare la propria terra per, è vero, a Roma c'è il cinema, c'è il doppiaggio, eccetera, a Milano c'è la moda, Infatti ero molto indeciso se continuare a sfilare, fare il modello, i portafogli, oppure fare il modello, il monello, come sto facendo. Che cosa avevi portato, caro Antonino? Ho portato un pezzo di 300. Il film. La parte di chi? Di Pedicini che strilla? No, come no, no, no. Questa, no, no, Sparta! No, no, no. Di braccio destro di Leonida, che alla fine fa un discorso agli spartani, gli ultimi rimasti, che stanno per affrontare un'altra battaglia. E allora andiamo in questa fase evocativa. Ti ripresenti nome e cognome e il titolo del pezzo, così okay, teniamo per la scelta finale. Vai. Antonino Saccone, 300. Ricorda chi eravamo. L'ordine più semplice che un re possa dare. Ricorda perché siamo morti. Lui non desiderava tributi, o canzoni, o monumenti, o poemi di guerra e coraggio. Il suo desiderio era semplice. Ricorda chi eravamo. Così mi ha detto. Era la sua speranza. Se un'anima libera dovesse arrivare in questo luogo, negli innumerevoli secoli di là da venire, possano tutte le nostre voci sussurrarti dalle pietre senza età. Va a dire agli spartani, viandante, che qui, secondo la legge di Sparta, noi giacciamo. Figli di Roan. Beh, vabbè, c'è un altro tipo di vocalità da parte sua, anche se giovane. Ha cercato queste ingolate, attenzione alle ingolate, seguite le pillole di salute vocale del nostro grande Franco Fussi. E va bene, perché se gridi sbagliato in quel modo rischi che ti parte una corda vocale. Beh, stai meglio adesso. Tutto va bene. Tutto bene. È quello. Va bene, devo dire che sei stato bravo, è stato... Grazie. Senza imitare, hai saputo anche usare il microfono, visto che hai fatto campo con la voce. Mi hanno detto prima, diciamo. Non lo dire, perché anche a me mi suggeriscono cose all'orecchio. Ma non lo dire, lasciala così. Nel secondo. E andiamo alla nostra fanciulla, giovane anche lei, quanti anni hai? 27, sono stati tutti carini. T'hanno accolto bene, sì, qui, no? Sì, nessuno ha tentato, bimba, farò di te una stella, ti aiuterò in questo mondo. No. Manuel Meli si è comportato bene. Benissimo. Ok, no, no, perché Mauro Meconi non lo so, ma anche lui ha due figlie gemelle. Non si rischia niente. No, tutto a posto. Perfetto. E tutto questo va agli atti, perché è registrato, beh. Allora, come ti chiami e da dove vieni, ovviamente? Veronica, e sono calabrese. Calabrese. Vivo a Roma da 2 anni. Calabresi dove? Cosenza. Mio papà è di Reggio Calabria, per cui veniamo tutti da quelle parti lì, la Sicilia, la Puglia, la Calabria. Mio padre è siciliano invece, quindi sono un mix. E mamma è calabrese? Mamma è calabrese, sì. Dove sono contrati? A Villa San Giovanni? Dove sono? Il Praghetto. In realtà sono nata a Torino, quindi io non so cosa mamma sia mia! Successo. Vabbè, magari stava lavorando su papà. E da quant'è che sogni di fare questo mestiere? Stai studiando? Da un bel po' di tempo, però studio da poco. Da 2 anni, da quando sono qui. Diciamo. Sembra Ignazio La Russa fatto da Fiorello. Diciamo. Che cosa hai portato? Il buio nell'anima, interpretato da Jodie Foster. Sì. E la brava Laura Boccanera. Sì. E allora, c'è una musica di sottofondo, qualcosa vuoi? Sì, la colonna sonora. Ce l'hai già portata dalla nostra deca? Perfetto. Allora, ti ripresenti il nome e cognome e il pezzo. Veronica Loforte e il buio nell'anima. New York, la città più sicura del mondo. Ma è orribile avere paura di un luogo amato e vedere un angolo che conoscevi così bene spaventarti per la sua ombra. Non avevo mai capito come si potesse vivere nella paura. Paura di rincasare nel buio sola. Paura di ritrovare nella posta quella polvere bianca, terrore della notte. Gente che ha paura di altra gente. Credevo che la paura appartenesse a altre persone. Persone più deboli. E ora ce l'ho dentro. E quando ti tocca, capisci che è sempre stata lì, lei. In agguato. Ben nascosta sotto tutto quello che tu amavi. Ti si gela il sangue. E il tuo cuore duole. Tu guardi la persona che eri camminare per quella strada. E ti domandi se mai. Se mai tornerai a essere lei. Beh, dai. Capito come utilizzano già questo microfono, eh? Complimenti. Io cerco sempre di chiudere gli occhi perché, insomma, è quello, la voce è evocativa. La voce, come diciamo dalla prima puntata di 3 stagioni fa, è l'elemento fondamentale, più importante di comunicazione che c'è al mondo. Ma non è la bella voce. Sono le giuste. No, benissimo, se la infili dentro le parole hai vinto. Grazie. Ma è la, non la bella voce, diciamo, ma la voce giusta, quella con le intenzioni giuste, quella che rende evocativa una parola, non è soltanto ciao piccola, come stai, eccetera. No, ti abbiamo occhi, ma il movimentare la voce nel modo giusto, utilizzarla nel modo giusto, e ci sono tante tecniche. Bisogna studiare. Tuttora anch'io con Franco Fussi, che avremo nell'ultimo blocco, ancora mi stupisco di quante cose io non sappia. Non soltanto della quotidianità o della storia, della geografia, della fisica, della scienza, ma proprio per quanto riguarda il nostro mestiere, come diceva anche Manuel, non si finisce mai di imparare quando si sta vicino a delle persone che stanno più avanti e sono, come sempre, il vecchio saggio, come erano rispettati. Noi ancora i grandi vecchi, fra virgolette, li stiamo ad ascoltare, e i grandi consigli, anche perché nascondono veramente tante verità. Siamo cresciuti tutti all'ombra di qualcuno. Qual è stato il tuo punto di riferimento come doppiatore? Ce l'hai? O di questa generazione o di quella scorsa? Ma diciamo che come doppiatore ho sempre apprezzato tanto Sandro Acerbo, uh-huh. Marco Mete, e diciamo che sono anche quelli a cui sono più affezionato, perché sono poi quelli con cui ho lavorato per primo, quindi... Ma il tuo punto di riferimento anche delle vecchie generazioni? Beh, ce l'hai un Peppino Rinaldi? Peppino Rinaldi, quelle grandi personalità, sì, di una volta, sì sì, che erano veramente dei grandi, queste voci. Pino Locchi, timbra, Pino Locchi. E Glauco Onorato, Gianni Musi, troppi. Sì, Renato Mori, insomma, tanti, tanti, tanti, sì, è vero, Sergio Fiorentini, ce ne sono tanti, tanti davvero, hanno dato veramente tanto, ci hanno dato tanto. Va bene, e allora, siamo arrivati alla fine di questo blocco, devo dire che il livello si è alzato tantissimo. Già un buon livello, sì, sì. Si è alzato tantissimo in queste ultime puntate, sempre meglio, perché prima c'è stata un'inondazione. Abbiamo fatto una gran fatica nello scegliere, ma poi è vero che, insomma, la nostra redazione composta da persone che fanno questo mestiere, non come quando si va a fare dei provini e ti trovi di fronte qualcuno che te fa la controparte e tu devi recitare bene con quello all'altra parte della telecamera, fa: allora mi ami? Sì, io ti ho sempre amato. Non diciamo stupidaggini. Non è una stupidaggine, io ti amo davvero. Ma stai scherzando? Cioè, tu no, impazzisci. E tu dici: ma come faccio? Ma io non te, io te odio. Va bene, allora a tra pochissimo con altri due. Manu, rimani un altro po', rimani, sì, un altro, sì, blocco, sì. Ti perdi un quarto d'ora della, rimango, tua Roma. Rimango. Santa miseria, magari tocca fare una fatica con questi colleghi. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Grazie, signori miei. Voice Anatomy. Eccoci, signori miei, bentornati a Voice Anatomy. Allora, siccome stanno arrivando decine, forse centinaia di messaggi a Milano per partecipare non al contest sul doppiaggio, ma alla serata finale il 23 novembre a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, ve lo ripeto. Dovete mandare il vostro nome, cognome e numero telefonico sul nostro sito, su Facebook, Voice Anatomy. Da lì sarete contattati, i primi 100 che chiameranno. Ovviamente qui non si tratta di essere migliori o peggiori, si tratta di essere rapidi ed essere disponibili per quella serata alle 21 a Roma. Va bene? Ve lo ripeterò ancora perché so che, insomma, uno può essere anche distratto dal punto di vista radiofonico, anche televisivo non ne parliamo, ma radiofonico magari anche. Allora, le partite sono cominciate da 3 minuti, ma voi restate qui, tanto restiamo. Diciamo noi il risultato, casomai, soprattutto quello delle squadre che riguardano i nostri amici presenti. Allora, caro Manuel Meli, io voglio sentire un altro momento tu, anche se metterai in difficoltà magari qualcuno di loro, no, che deve fare. No, no. Questo Shameless, sì. Un altro bellissimo film giovanilisti di giovani. Sì, è una serie TV. Sì. Parla di questa famiglia, i Gallagher, che sono uno più pazzo dell'altro. In questo caso io faccio un ragazzo omosessuale che soffre hai anche, fatto tutto, sei è assassino. Anche bipolare. Niente, cioè, cosa ti manca? Allora sentiamolo questo personaggio folle del nostro amico Manuel Meli, prego. Ehi, volevo dirti che me ne vado. Ok, ci vediamo dopo. No, invece. Abbiamo chiuso. Ma di che cazzo stai parlando? Io non ho più alcun interesse a fare l'amante. Cristo santo, da quando sei così melodrammatico? Da quando ho capito che sei un piscia sotto. Dillo ancora e ti prendo a calci in culo. Andiamo, andiamo, fallo. Tu ti credi un duro, vero? Vero, non lo sei. Sei un codardo. Vaffanculo. Ecco. Tu non hai capito un cazzo. Oh, capisco e come. Capisco meglio di chiunque altro che hai paura di tuo padre. Paura di tua moglie. Paura di vivere ciò che sei. Sai che ti dico? Vattene. Che cazzo mi frega, Frocetto? Linguaggio è questo. No, vabbè, ma siamo sdoganati da Cruciani, guarda. No, no, dico, ambientata a Oxford. Sì, eh. Giacca e cravatta. No, ma c'è verità, comunque, sì, c'è la verità, no, sono parole utilizzate. Ma questo può anche aiutare qualche persona magari a, no, no, a ma specchiarsi. È fatta bene, è fatta molto bene. Quelle serie che aiutano anche... Voi la vedete? Che serie vedete, signori? Altri due nostri pretendenti al titolo. Tantissime serie tipo Trono di Spade. Ecco, allora l'hai odiato anche tu quel, tantissime, quel re. Tantissime, mamma mia. Esatto, mo hai visto Chi lo doppia e ti è passata la voglia di ucciderlo. Lui, appena l'ho visto, no, sì, non ci credo. Ho capito, 1,90 lascialo stare, pure grosso, per cui diciamo che il personaggio è antipatico. Oppure? Oppure Breaking Bad, sono un... Vabbè, Breaking Bad è Shakespeare, no? È proprio scritto da Shakespeare. Esatto. Cioè, no, è proprio la serie, la madre di tutte le serie, Breaking Bad. Sì. Esatto. Infatti il nostro amico che la doppia, che è venuto De Sando, ormai lui spaccia proprio anfetamine. Sì, sì, sì, ormai. Ma infatti ho visto pure prima, mo adesso viene al lavoro col camper, poi dorme. Sì, sì, esatto, dorme lì su cose verdi. E tu invece? Beh, anche The Walking Dead e molte altre serie. Cioè, però Walking Dead è così arrabbiato Chi lo doppia il protagonista, che poi anche la voce ufficiale di Radio 24 ce l'ha col protagonista. Sei cane, no, voglio più doppiare. Ma non lo puoi dire, ma che dici? The Walking Dead, cioè, non finisce più, una trovano sta cura, non si sa, noi lo chiederemo a lui, faremo uno spoiler di tutto questo. Allora, amico mio, sta prima la fanciulla, mi diceva Mauro Meconi, volevi sentire? Va bene, comandano Mauro Meconi e Alessia Navarro, sono solamente una voce che veicola la trasmissione. Dimmi, come ti chiami? Allora, mi chiamo Camilla Diacci, vengo da Roma e porto un Roma dove? Fiumicino. Fiumicino. E porto... Devi tornare a Fiumicino, ma non parti tu. No, non parto, non parto, vado con la macchina. Benissimo. E porto un monologo tratto dal film La verità è che non gli piace abbastanza. Ah. È molto gettonato fra i giovani questo film. Quanti anni hai, mi hai detto? 20. 20, 20. Va bene, tu segui anche dei corsi, stai studiando per fare questo mestiere, mi raccomando. Ho frequentato un anno di Accademia Artisti. E il telefono è acceso? Sì. Lo mettiamo in versione aereo, tesoro? No, senza scansarlo, perché rientra, non è che dobbiamo volare, però sente... Queste cose. Non ti preoccupare, questa cosa non varrà il punteggio. è fuori la cosa. E ho frequentato un anno di Accademia Artisti e ho fatto 4 anni di canto. Ma mi canti allora tu? Mi fai sentire una cosetta a cappella, che si può dire per radio anche a quest'ora? Che mi fai sentire? Musical? Non lo so. T'ho preso in contropiede? Sì, un 4 anni di canto, una cosa, ma la devi fare piccola, una nota. Tanto non cerchiamo cantanti, cerchiamo attori. Mi prendi un attimo alla sprovvista, non ho portato niente. Niente, non ti ricordi una Giorgia dannata, no? A parte questo non ti viene in mente nient'altro. Dovrei urlare un po', quindi non mi sembra il caso. Ma perché? Ti sta toccando qualcuno? Da. No! No, no, e no. E che cos'è? Whitney Houston? Non mi sento in grado, comunque. Va bene. E non lo so, potrei... Non ne ho... Entro stasera che ci abbiamo avanti la trasmissione. Va bene, ti ho messo in difficoltà. No, ma non volevo, tesoro. Va bene, allora fai tu, Manuel Meli, un pezzo di Whitney Houston. Te la senti? Whitney Houston? No, no. Esatto, sì, anche io canto qualcosa. Michael Bublé. Un po' canto. Ah, mi canti? Qualcosa. E che ti viene in mente pure a te? Ma non lo so, Michael Bublé hai detto. Dai. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line of sand when I go too far. avanti, no? No, ma era bello questo inglese, molto per dire, di Roma Sud. Grazie, grazie. Era di Roma Sud questo inglese. Beh, perché Michael Bublé viene da, esatto, da Torpignatta. Esatto. A te non ti è venuto in mente niente. No, va bene, allora dai, cominciamo. Nome e cognome e il pezzo che porti. Ok. Camilla Diacci, la verità è che non gli piace abbastanza. Mentre cresciamo ci insegnano tante cose. Se un ragazzo ti dà un pugno, gli piaci. Non tagliarti i capelli da sola. Un bel giorno incontrerai un uomo meraviglioso e anche per te ci sarà il lieto fine. Ogni film che vediamo, ogni storia che ci viene raccontata, ci scongiura di aspettare questo, la svolta del terzo atto. La dichiarazione d'amore inaspettata, l'eccezione che conferma la regola. Ma a volte siamo talmente concentrate sulla ricerca del lieto fine che non riusciamo ad interpretare i segnali, a riconoscere chi ci vuole da chi non ci vuole, chi resterà da chi andrà via. E forse nel lieto fine non è compreso un uomo meraviglioso. Forse sei tu, da sola, a rimettere insieme i pezzi e a ricominciare. Per liberarti, nell'attesa che arrivi qualcosa di meglio in futuro. Forse il lieto fine è solo andare avanti. Ok, va bene, bene. Allora passiamo a lui. Se tieni in mente una canzone, pensaci una. Va bene. Canti, mentre lui recita, tu canti. Non mettiamo la musica. Nome e cognome, amico mio. Allora, io sono Francesco Paoletti e... Ma parla, ti aggiusto il microfono. Sì, io sono Francesco Paoletti, vengo da Cupra Montana, un piccolo paesino molto dov'è? Molto famoso, era la ex capitale prima di Roma, sì, sì. Però nessuno lo sa. Ma no, è magari piccolo... sono piccoli centri che magari sono bellissimi. No, dai. meraviglioso. Poi di noi dov'è? Abbiamo... Provincia di? Provincia d'Ancona. D'Ancona, sì, sì. Okay. Poi noi abbiamo una rinomatissima festa del vino, è 80 anni che la fanno, noi siamo famosi per il verdicchio. Sì. Importazioni di vino, è meraviglioso. Si sente come stai parlando, che ancora sta sotto la festa. No, non ci sono andato quest'anno purtroppo. Quest'anno non ci sono andato. Si sente un po' adesso. Certo. Sì, Montanini, in grande comico, vi ricorda Mauro Meconi, che dovremmo avere prima o poi. Un po' spinto, un po' forte, ma devo dire geniale. Un po' politicamente scorretto, è un grande. Sì, però bravo. Devo dire, quando sta poi su YouTube, eccetera, è picchiaduro. Devo dire che bisogna vederlo per capirlo, sentirlo per capirlo. E cosa hai portato? Oggi ho portato il monologo di Ezechiele 25-17, che è famosissimo. Ecco lì, si chiama Luca Ward, capirai. No, se chiamate Luca Ward faccio una figuraccia, quindi... Morgan Freeman, poi diciamo, è finita per lui. Mi fa male il Meli, se questo andrà male Luca De Boccia. C'hai una musica sottofondo? No, perché non quel pezzo no, non no, c'è. No. A che ora finisce il blocco? Chiedo alla mia grande tecnica. È un quarto. Dopodiché ascolteremo l'amico Claudio Simonetti che ci racconterà delle belle cose dei suoi goblin, eccetera, eccetera. Allora, presente, nome e cognome e il titolo del pezzo. Francesco Paoletti, Pulp Fiction, Ezechiele 25-17. Leggi la Bibbia, Brad? E allora ascolta questo passo che conosco a memoria. È perfetto per l'occasione. Ezechiele 25-17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare ed infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te. È cattivo. Attenzione ai finali, rischiano di essere, questo è un consiglio, troppo uguali, troppo uniformi, per cui non abbiamo la differenziazione fra un concetto e l'altro. Si è andato poi in emulazione di quello che ha fatto Luca su Ingolando un po', ma la potenza che ha magari un attore doppiatore del suo calibro certo. È diversa. Tu sei giovane, quanti anni hai? 24. Capito, cercare quelle vociacce non è facile, però ci sta. Se provi adesso a leggere più leggera, come se fossi un ragazzo di 24 anni, dai. Non vale per il provino, ovviamente, quella di prima. Sempre cazzato oppure un po' più... No, leggero. Guarda, certe cose arrivano più pesanti se sei leggero. Ezechiele 25-17. Il cammino... Senza fai 17. 17. 17. 17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia... Senti che vai sempre, poi tendi a tornare sulla stessa nota. Sì, è uniforme un po', sembra un po' le fiction, quelle italiane... quando mi sparisce alla finale, Sì. Però va bene, no, ci sta, adesso non vuole essere un giudizio, è sempre, sempre un aiuto, un pizzico in più, voi prendetela sempre sì, sì. Come una critica positiva nei vostri confronti, insomma, da quelle si cresce, se sono costruttive fanno bene, se sono gratuite non fanno niente, nessuno deve togliere dalla testa la possibilità di fare questo mestiere, nonostante vada bene o vada male. A me, vi ripeto, la prima volta che mi hanno visto in sala di doppiaggio, quando ho cominciato a fare qualcosa di più importante, mi hanno detto: questo chi l'ha mandato non farà mai sto mestiere. Dai, davvero? Sì, sì. Capito? Succede così, ma sarà successo pure a Manuel, sicuramente. Qualcuno ti ha levato la voglia di farlo? No, meno male, lui è stato bravo dall'inizio. Saluta Manuel, saluta! Allora Pino, ringrazio te, ringrazio tutto lo staff di Radio 24, colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare un mio caro amico Davide Pigliacelli, anche nostro, che da tanti anni si occupa di promuovere il doppiaggio e ha anche un sito www.doppiatoriitaliani.com. E per quanto mi riguarda, tra i prossimi eventi, il 6 e 7 gennaio sarò al Cavacon di Cava dei Tirreni. E con? Che farai? E c'è una manifestazione sempre tipo degli incontri, fumetti, cosplay. Bello, bello. E quindi niente, teatro, vi ringrazio. Non molleremo no, mai, assolutamente. Non infatti, lasciarlo mai. Voglio andarci sempre più spesso a vedere altri colleghi, altri attori e fare qualche anche corso di... Ma no, vai, ci sei. Va bene, in bocca al lupo a voi due, adesso ascolteremo poi l'ultimo. Grazie. Nel frattempo ci collegheremo con Claudio Simonetti. Vi ringrazio, grazie Manuel, grazie davvero te, di Pio, cuore, in bocca al lupo per tutto. A tra pochissimo con Voice Anatomy. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, 15 e 17 minuti e una manciata di secondi. Credo di avere il mio super ospite al telefono, se non sbaglio, vero? Pronto? Eccomi qua. Eccolo, dottor Claudio Simonetti. Ciao, ragazzo. Pino, buona domenica. Buona domenica a te. So che aspettavi con ansia questa mia telefonata tutto Beh, certo, il giorno. Logico, sì. Ogni emozionato. Tanto ci sentiamo oltre che mandarci i messaggi. Sì, tu mandi dei messaggi terrificanti. Tu sei un ma no, pazzo. Quelli mi rimandano a me e io li rimando a te. Tu perché... li giri a me. Lo faccio apposta per molestarti, così, no, no, così ogni tanto ti ricordi di me e vedi. Come faccio a qua. Dimenticarmi di te, Claudio? Ma sei pazzo. Il ragazzo d'argento, ce l'abbiamo quella bella musica di sotto? Sentiti un po' se ti ricorda qualcosa questa roba qui, mamma mia. Sì, ti ricorda qualcosa? Me la ricordo. C'hai pochi secondi per ricordare che cos'è. Sì, no, cioè io ho la memoria come i pesci ormai. Sei Dori, alla sì. ricerca di Dori. Profondo rosso, che bello. Sì. Senti grande Claudio, io ti ho avuto già ospite, ma è sempre un grande piacere ricordare tutto questo, eccetera. Tu hai scritto questo libro, mi sei diventato sì, anche allora, uno scrittore. Guarda, io ho scritto questa biografia. Il ragazzo d'argento si intitola, no? Se non sbaglio. Come? Il ragazzo d'argento si intitola. Claudio Simonetti, il ragazzo d'argento. È una biografia che io ho scritto insieme a Giovanni Rossi, che è un bravo giornalista specializzato in biografie di grandi artisti, e con la Tsunami Edizioni che fanno sempre grandi biografie di grandi artisti internazionali, quindi quando mi hanno chiesto di fare la biografia mia mi sono sentito onorato, perché insomma appartiene alla storia tua, sì, insomma vieni da una famiglia con una storia importante. Ho tanto da raccontare, sì. Ho 4 decenni da raccontare, insomma, sì, non può anche di più. Infatti sì. In questo libro io racconto da quando sono nato in Brasile con mio padre, quando siamo trasferiti in Italia, e tutto il periodo soprattutto storico, musicale e non solo, degli anni 70, del famoso rock progressive, di tutto quello che succedeva, di tutto quello che si viveva a quell'epoca, fino ad arrivare poi agli anni 80, dove poi ho cominciato con la televisione a lavorare. Racconto anche che abbiamo lavorato insieme, ti ricordi con la premiata ditta certo, a Domani Sposi? Quella è stata la madre di tutte le trasmissioni, quelle sul matrimonio, perché era un quotidiano con Giancarlo Magalli. Vero. Poi da lì gli spin-off si sono moltiplicati per tutta la vita e quant'altro. E poi c'era anche Gianni e Spin-off, che erano due famosi. Gianni e Spin-off, ma no, tu sei veramente cretino con lei, no? Ma no, sapere che Claudio no, è quello che mette in... Ecco, no, ma tutti devono capire che la cosa che per cui riusciremo a sopravvivere è l'autoironia, è il gioco, vero, lo vero. Scherzo, ma che dai, finita. No, ma infatti, guarda, io in questo libro racconto anche i trascorsi tragici della mia vita, non solo quelli di grande successo, sì, perché ecco. Sarebbe troppo facile. No, racconto anche le disavventure, dico quello che mi è successo con varie persone, con i vari personaggi che ho incontrato nella mia vita, che mi hanno aiutato. Qual che è la cosa stati... che ti ha cambiato la vita? positiva e quella negativa. Sicuramente l'incontro con Dario Argento quando avevo appena 22 anni è stato quello che ha poi segnato la mia vita, perché grazie a lui e alla sua fiducia su un gruppo di sconosciuti e giovani come eravamo noi, io appunto il più grande ero io, avevo 22 anni. Quando abbiamo fatto Profondo Rosso, affidare poi un grande regista già famoso come lui, affidare una colonna sonora così importante a dei giovani, insomma, ci vuole coraggio. Non so che aveva sentito Dario per quanto riguardava voi, cioè come si è convinto per darvi in mano? No, guarda, la cosa è andata così. Allora, lui e il suo editore era Carlo Bixio, che tu conoscevi bene. Sì. Ecco, e Carlo Bixio però era anche, ci stava producendo a noi in studio di registrazione, non eravamo ancora Goblin. E allora Dario Argento gli chiese di fare, voleva le musiche per Profondo Rosso, un pochettino più rock, però anche se le stava facendo Gaslini, un grande musicista jazz, però non era molto convinto e voleva un gruppo rock. Allora gli ha detto: oh, guarda, io voglio Deep Purple e Pink Floyd, e li ha fatti addirittura contattare questa gente qua, che naturalmente erano impegnati, avevano dei problemi. Allorché Carlo Bixio ebbe la lungimirante idea di dire: no, aspetta, io sto producendo questo gruppo che fanno musica un po' gotica, un po' così, vedi se ti piacciono. Venne in studio Dario Argento e ci scelse per fare, disse: ah, mi piacciono, bravi. Bello, pensa che coraggio che sì, però ci ha indovinato bene, perché insomma poi da lì a vendere 4 milioni di dischi non è da tutti. Insomma. No, perché poi non è che vi siete fermati a quel successo e non ti sei fermato a quel successo. No, anzi, poi il film successivo è quello più famoso ancora di tutti, che è Suspiria. Suspiria, esatto, sì. Infatti Suspiria, il film, penso, sono tornato adesso, ho fatto due concerti, uno in Australia e uno in Giappone. In Australia ho suonato Suspiria, tutto il film intero con la colonna sonora. Ah, che bello. E Profondo Rosso, sai che è la cosa buffa? Profondo Rosso in Giappone, sai come si chiama? No. Siccome Suspiria ebbe un grandissimo successo, Profondo Rosso uscì dopo, anche se era antecedente. E lo chiamarono Suspiria parte seconda. No. È buffissima questa cosa. Infatti, sì, fa ridere. Le poste del concerto che abbiamo fatto una settimana fa, e c'è scritto Suspiria parte seconda, poi Profondo Rosso. E quindi pensa quanto sono importanti. No, ma poi la cosa straordinaria è vedere a distanza di più di 40 anni che questi film ancora sono famosi, soprattutto tra giovani in tutto il mondo. Io sto vivendo una nuova giovinezza e quindi sono meravigliato. Non siamo mai profeti in patria, santa miseria. Sì, no, vero, qui sei apprezzato, anche, anche se, però, devo sei dire molto che apprezzato qui... Sì, c'è tanti concerti, infatti ti abbiamo invitato al Gran Premio, ma non puoi cosa, esserci. Però vedi, cioè, tu stai in Australia, ti aspetti che sia così lontano, il Giappone così lontano, che pensi che non sia arrivato l'eco di tutto questo, e invece ti rendi conto quando vedi migliaia di persone che osannano la tua musica, la tua recitazione, no, quello poi, che guarda, sia il tuo libro. Da sempre, che... loro ti amano, tant'è che ci vado tutti gli anni in Giappone, questa è la sesta volta che ci vado. Ed è, ma loro sanno che mi conosci. Questo pubblico di giovani di è bellissimo, guarda, veramente. No, vabbè, però, perché poi non sono canzoni, non è che canto cioè, capito, ti seguono e la vivono, perché è musica tensiva, bellissima, tematica, ma anche Suspiria. Suspiria, com'era il tema? La tu non stai bene, però lo sai, non stai bene, non stai proprio bene, che uno dice. Ma tu l'hai fatta tu con la laringe gite o l'hai fatta fare a qualcuno? L'hai strozzato? No, mi sono bevuto un po' di varecchina. Questo è come Tenebre, no? Paura, paura. No, vabbè, il vocoder invece è bello, perché l'ho usato per Tenebre, perché io venivo poi, dopo la separazione dei Goblin nel 78, io mi sono messo a fare la dance, come tu ben sai. Sì. E quindi ho usato il vocoder per fare la dance, e allora ho unito il vocoder con Tenebre e abbiamo fatto un rock dance e ha funzionato molto, insomma. Sì, sì, ti sei sempre riuscito a rimontare, cioè anche ti sei riciclato, non è la parola giusta, sei cresciuto su te stesso, perché dal prog degli anni 70 straordinario, perché vieni da quella scuola sì, ricordiamo la PFM, il Banco del Mutuo Soccorso, gli Area, eccetera eccetera, e tu nasci con quella forza lì, e poi hai parlato di gothic rock prima di tanta gente, insomma, e sull'elettronica, no, poi dopo, appunto, dai, nel 78 è come racconto nella mia biografia, nel 78 a un certo punto è finito tutto, cioè tutta un'era che chiudeva un decennio anche politico sgradevole, perché insomma diciamo che è finito tutto con la morte di Moro, che neanche a farla apposta, purtroppo nel 78 coincise anche con la morte di mio padre e con la morte di Bixio, il grande, non Carlo ma il papà, cioè il papà, Bixio. Quindi io conservo un ricordo purtroppo non bello del 78, però nel 78 si chiuse tutto un capitolo che io racconto poi nel libro di tutti quando andavamo a vedere i concerti con la polizia che ci minava, perché eravamo capelloni, sì. Perché ecco, tu magari sei molto più giovane, queste cose non l'hai detto. Beh no, cioè, comunque nel 78 io facevo il quinto liceo e mi ricordo che il professore entrò in aula e ci disse: è finito, è tutto finito, hanno trovato Moro morto. Bravo, vedi, disse questa frase qui, non la scorderò mai. È tutto finito. Infatti sembra un po' come l'omicidio di Kennedy in America, come se l'Italia avesse perso la verginità in quel momento. È vero, è vero. Lì, fu un momento di passaggio importante. E quindi è finita tutta un'era. Poi dopo diciamo che anche le generazioni del 68, con tutto che io nel 68 ero un po' più piccolo dei 68-tini, sì. Quella generazione lì poi comunque era cresciuta, erano passati 10 anni, quindi erano tutti trentenni. E quindi sì, sì. I giovani di allora, i diciottenni di allora, amavano di più la dance, la musica, sì, quella facile, non c'era più politica nella musica, ecco, per fortuna è andata così. E quindi ecco, io racconto anche questo passaggio che ho avuto tra la mia separazione con i Goblin e la chiusura con quell'epoca, e dedicandomi quindi alla dance, fino ad arrivare da Profondo Rosso al noto Gioca Giuè di Claudio Cecchetto, è vero. Ecco, quello è un pezzo mio che io ho fatto e che non rinego assolutamente. Ma stai scherzando, magari. Gioca Giuè, se una festa sta calando il ritmo, metti Gioca Giuè e vai. Salutare! Dai. No, ma quello è una cosa bella. Ma certo, ma tutti i grandi hanno, vi ricordavo quando è venuto Fabio Concato, parlavamo delle voci nei cartoni animati, che all'inizio quello si faceva, quello doveva esserci, o come le voci nelle pubblicità, le canzoni eccetera, non bisogna mai rinnegare, o i miei doppiaggi dei film porno dei 37 anni fa, insomma, non... ma è così, no, è così. Quello me lo devi far sentire. Ma dai, te lo fa sentire, faccio i godimenti ai 2 mega, che sono le 3.27, lì cominciai così, insomma, poi l'ho raccontato qualche volta, e non lo nascondo. No, insomma. Vabbè, ma infatti non bisogna, cioè, no, era, anche perché poi questo... Era il 78, anche lì, no, era il 79, pensa, un anno dopo. E cominciava perché lì c'era soltanto quel cinema, il cinema vero, e in pellicola il cinema di luci rosse. Ho colleghi dei quali non dico i nomi, anche importanti, che hanno fatto molte musiche per questi film, perché poi andavano al cinema e incassavano più quelli di Guerre Stellari, capito? Il VHS nasce per quello, il DVD nasce per quello. Esatto, sì. Perché e non c'era ancora, per cui dovevamo fare questo, assolutamente sì, anche tu pensi che ha fatto la colonna sonora di Gola Profonda, quanti soldi ha incassato. Sì, è vero, vero. Sì. Lasciamo stare che ha fatto, che poi invece è morto in povertà. Tanto, sì, sì. Amico mio, e poi quello, penso, stranamente, dimmi. Era un film che uscì, io lo vidi al cinema, in America, perché qui in Italia chiaramente non erano mai stato, e c'era una fila di ore per entrare. No, ma infatti quello è stato quello che ha sdoganato i film alla luce rossa. Ci andavano le famiglie, non dico i bambini. Tu pensi che domenica prossima avremo ospite qui a Voice Anatomy, tu dirai che c'entra, è Rocco Siffredi, e parleremo... Lui è figlio di quella generazione là. Sì, certo, no, ma parleremo di questo perché poi il doppiaggio, la voce, cioè quello è Body Anatomy, però insomma sì, Rocco, esatto. Mi sembrava molto bene, un uomo di vasta intelligenza, e ne ha costruito veramente un impero grazie alla fisicità, un po' come me. Io poi nel libro racconto un aneddoto che è molto carino legato a questo. A parte che pure io ho fatto le musiche per un paio di film del genere, ma così con lo pseudonimo, però. Certo. Però la cosa forte è che il mio compagno di banco della terza media era Riccardo Schicchi. Ah, per cui insomma tu conoscevi il produttore di tutto questo. Io conoscevo lui, ma avevamo 14 anni, quindi ancora non era. Era un personaggio già un po' strano, particolare, all'epoca, molto particolare, ma un genio, un vero genio. Ma infatti è riuscito a fare legge in Parlamento Cicciolina, insomma, parliamoci chiaro. Non è una cosa facile, è vero, un momento di riflusso politico. Quando entrava lei, si alzavano tutti i membri in Parlamento. Certo, quindi... e qui con questa cosa salutiamo Claudio Simonetti. Con questa battutaccia da cabaret. No, vabbè, ma questo ti rende sempre grande onore, guarda Claudio. Ricordo veramente Claudio Simonetti, un ragazzo d'argento, per me è un amico d'oro. No, però ma infatti con Pino mi piace scherzare molto, perché ho sempre avuto una grande stima di te In tutti i sensi, quindi veramente è stato un grande piacere, ti ringrazio di avermi fatto questa diretta. Ma io ringrazio te, Claudio, davvero. Radio spero di riaverti qui fisicamente dal punto di vista biografico. Io vengo, lo sai. Sì. Va bene. Claudio Monetti, Un ragazzo d'argento, un bellissimo libro, una bella storia, tanti anni da raccontare dove la gente si può anche specchiare. Sono tanti anni, naturalmente parlo anche molto di mio padre, di tutto quanto, insomma, Enrico Simonetti. Di tante cose, insomma, sono molto un libro piacevole, secondo me. Sì. Bene, non è le biografie quando sono scritte bene sono affascinate. Sì, sì, assolutamente. Claudio, grazie, un abbraccio forte. Ciao Claudio. Grazie. Ciao, grazie. E allora, mentre si sta già preparando qui la nostra ultima concorrente di questo contest, noi ci sentiamo fra poco, se non sbaglio, vero? Siamo in pubblicità. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori. Anche un conduttore ha dei bisogni. E insomma, sono le 15.35, abbiamo l'ultima del contest. Voglio ricordarvi la cosa che ho detto prima. Allora, se volete partecipare al nostro contest, da martedì mandate il vostro file. Abbiamo ancora 3 puntate prima di entrare nelle semifinali, dove saranno scelti 12 di tutte le persone che hanno partecipato fino adesso, tutti i ragazzi e non solo che hanno partecipato fino adesso a Voice Anatomy. Saranno scelti 12, si scontreranno i primi 6 e poi 6 all'altra puntata il 17 dicembre di fronte a Anna Laura Carani, che è la responsabile edizioni della Warner, non solo, anche Columbia, eccetera. Si deciderà chi potrà provare ad entrare in questo mondo. Io sono molto contento che hanno dato questa bellissima possibilità. Altra cosa invece, partecipare come auditori, ovviamente come spettatori, al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, il nono, che si terrà all'Auditorium Renzo Piano, al Parco della Musica, Sala Sinopoli, il 23 novembre alle 21. Ho voluto dare insieme alla Ince Comunica 100 posti, visto che è un posto molto grande, insomma, dare la possibilità a 100 di voi di partecipare come spettatori, visto che non è una serata a pagamento, è una serata di gala, a 100 che voi, di voi che amano questo mondo, di partecipare come spettatori. E per cui mandate sempre nel nostro sito Facebook, Voice Anatomy, il vostro nome e cognome e numero telefonico. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Va bene? E poi sarete ovviamente contattati. E abbiamo qui la nostra ultima, soltanto in senso cronologico, una fanciulla. Ciao Pino. Ciao. Come stai? Bene. Ok. Senti, attacca prima tu. No, prima tu. Quanti anni hai? 26. Che vergogna, tutti giovani. 26, come ti chiami? Valentina. Di cognome? Floris. Codice fiscale? FLRVNT. Di dove sei? Di Roma. Di Roma. Roma dove? Zona? Roma. Ci pensi? Ma sì, Ponte Mammolo, Re Bibbia. Ah, Re Bibbia, bisogna dire che è una zona, non è soltanto un carcere, insomma. È anche una zona di Roma. È anche una zona, vabbè, un saluto a tutta la polizia penitenziaria, visto che insomma ci si collabora. Ah no, persone che lavorano duramente. Bene, allora, mi dice qualcosa Mauro Meconi, dimmelo. Va benissimo, sì, ricordo anche la nostra web series, la serie web di successo che è Mama Nero, è arrivata credo alla 6ª puntata. E come sempre sul sito Mama Nero, anche il nostro di Voice Anatomy, su quello mio, su quello di Mauro Meconi, Alessia Navarro, insomma, molto condivisa, devo dire, siamo arrivati quasi a 1 milione di visualizzazioni per essere una serie web, poi con la regia di Mauro Meconi, devo dire che è un gran successo, è questo insomma, scritta da Daniele Prata. Allora abbiamo detto tutto, ci lasciamo qualche minuto con te per poi passare all'ultimo blocco con l'amato Franco Fussi per le nostre pillole di salute vocale. Che cosa porta? Che cinema ti piace? Ma in realtà mi piace molto l'animazione. L'animazione? Sì, amo tantissimo i cartoni animati, ovviamente. Quelli storici, bidimensionali oppure siamo arrivati alla Pixar, eccetera? I grandi bidimensionali. Quelli, il cartone vero, insomma. Sì. Qual è quello che sei, al quale sei più affezionato? Il Re Leone. Re Leone, sì. Con il grande Vittorio Gassman. E che si può fare? Ecco, lì era voi il primo amore, non si scorda mai. Eri piccola quando... però fa piangere, eh? Sì, strappa tanto il cuore. Sì. Però soffrivo nonostante... Eri piccola quando sei uscito. Sì. Già soffrivi così. Sì, straziante. Senti straziante. Già nella voce, sembra mezzanotte. Chiamala. No, 1-4-4. Dai, ti prego. E allora, cosa hai portato? Ho portato un pezzo di Novecento. Novecento, bello, il baricco, sì. Tratto sì. dal film o tratto dal tratto libro? Tratto dal film. Okay. Sì, che ovviamente sì, c'è anche Tim Roth, doppiato benissimo, devo dire, dall'amico, un grandissimo professionista, Massimo Popolizio. E allora, c'è la musica, c'è qualcosa? Sì, credo ci sia la musica. C'è anche la musica, hai dato dei soldi già al nostro, alla nostra tecnica del suono. Sì, però non mi hanno detto di dire niente. Cioè, sì. Va bene, troppo tardi l'abbiamo detto. Vabbè, peccato. E allora, scusate, ripeti il tuo nome e cognome e il pezzo che porti, vai. Ok. Valentina Floris, Novecento. Io ne ho viste di Americhe. 6 anni su quella nave. 5-6 viaggi ogni anno dall'Europa all'America e al ritorno. Sempre a mollo nell'oceano. Quando scendevi a terra non riuscivi neanche a pisciare dritto nel cesso. Lui era fermo. Lui. Ma tu... tu continuavi a dondolare. Perché da una nave si può anche scendere. Ma dall'oceano. Quando c'ero salito avevo 17 anni. E di una cosa sola mi fregava nella vita. Suonare la tromba. Così, quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il piroscafo e il Virginia andò al porto, io mi misi in coda, io e la tromba. Gennaio 1927. Li abbiamo già i suonatori, disse il tizio della compagnia. Non lo so. E mi misi a suonare. Lui se ne stette lì fermo a fissarmi senza muovere un muscolo. Aspettò che finissi senza dire una parola. Poi mi chiese: cos'era? Non lo so. Gli si illuminarono gli occhi. Quando non sai cos'è, allora è jazz. Ok. Questa è la colonna sonora oppure un pezzo jazz che è hai scelto? È un pezzo jazz, sì. Che hai scelto, sì. Sì. La colonna sonora di Ennio Morricone. Eh film. Sì. E allora, bene. Io non voglio commentare per non spingermi molto, però bene. Grazie. Una voce sensuale. E allora, a questo punto non ci resta che salutare. Siamo alla fine del blocco, volevo cominciare a farvi sentire delle poesie dette dai grandi, ma cominceremo magari dalla prossima settimana ancora con voi altri per il contest fino al 26 e poi via alle semifinali. In bocca al lupo per tutti. Viva il lupo. Anche per te, ovviamente. Bene, restate con noi, a tra poco con il grandissimo Franco Fussi. Ciao. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori miei, come dico sempre, mi piace molto chiamarvi signori miei, che vuol dire anche, sottintende anche signore mie, insomma, che a tutti voi che ci volete così bene, vi ringrazio. Abbiamo vicino il nostro amico, dottor Franco Fussi, per il nostro, non so quanti appuntamenti abbiamo fatto finora. Ma stanno avendo sì un grandissimo successo, perché sta aiutando tantissime le persone, non soltanto chi fa il nostro mestiere, il mio mestiere, ma anche persone che ne fanno altri che sono legati alla voce. Poi tutti i mestieri sono legati alla voce. Un'altra pillola di salute vocale, dottore. Cosa vogliamo parlare? Parliamo di possiamo parlare di farmaci che magari seccano le nostre corde vocali, che magari usiamo per altri motivi, che però poi mi creano problemi sulla corda. Certo, prego, abbiamo già parlato una volta per aiutare chi si è infiammata la gola, che sì. cosa non utilizzare. Cioè, abbiamo detto, infatti, ci sono i podcast sempre disponibili, mi raccomando. Idratazione, lubrificazione e umidificazione sono i requisiti più importanti, no, per le nostre corde vocali. Quindi abbiamo visto come l'idratazione, bevendo acqua, almeno 2 litri d'acqua al giorno, mettendo l'umidificazione, mettendo ad esempio la garza bagnata sotto al naso e respirare dal naso per 15 minuti. La lubrificazione non ne abbiamo accennato, però ci sono delle sostanze lubrificanti come l'aloe oppure la pectina. Dice che è la pectina. La sì. pectina è, è un polisaccaride che mi crea una idratazione, quindi migliora l'idratazione della corda. Dove la trovo la pectina? Esatto. Avete presente, oggi come oggi, dove si trova la pectina? A volte, professore? Pavarotti, quando stava per entrare in palcoscenico, qualcuno l'ha notato che biascicare qualcosa. Che cosa biascicava? Una fetta di mela. Perché la mela? Perché la mela contiene pectina. E quindi va a lubrificare le mucose. Attenzione, posso fare anch'io, sì, grande sì, scena. Certamente. Una fetta di mela meglio acerba. Sì, sì. Ma ciucciarla, masticarla e tenerla nel cavo orale, sì. Lo vedi. non è l'unico frutto e non è il frutto che contiene più pectina in assoluto. Qual è perché il frutto la maggiore perché noi usiamo, no, la pectina per fare le marmellate e viene estratta dalla mela normalmente, mentre invece il frutto che contiene più pectina in assoluto è l'agrume. L'agrume, arancio, limone. Sì, ma la parte dell'agrume, la buccia bianca, quella che quella tecnicamente interna, che si chiama fra il frutto e la buccia esterna, insomma. Esatto, si chiama albedo tecnicamente. Ma guarda quante cose. E quindi questa parte bianca, più di linea verde, questa parte bianca la mastico e mi idrata, mi lubrifica. La mangi, quella mandi giù, sì, quella si mangia con la buccia. Certamente. E quella si idrata. Quella idrata, ha un effetto idratante diretto sulle mucose. Questo va bene per tutti, signori. Se volete avere una voce limpida, bella, eccetera. Ma anche perché l'idratazione ha anche un effetto antitosse, antitossigeno. E quindi la tosse. Anche se abbiamo un po' di tosse, quello ci fa bene. Sì, perché poi la tosse è un microtrauma per il bordo libero delle nostre corde vocali, sì, anche quelli che fanno a schiarire e quindi rischio di più perché vado a traumatizzare il bordo limite. Invece di schiarire, scusa se apro un'altra parentesi nella parentesi, invece di schiarire facendo questa cosa che fanno tutti, è meglio respirare, sbadigliare, mandare giù saliva. Schiarire senza suono, cioè non con la voce, è ma che è un trauma per le corde vocali così. E poi deglutire oppure un leggero colpo di tosse seguito da una deglutizione e basta. Perché sono traumi ovviamente proprio forti. Idratarsi. Bene. Tra i farmaci, dicevamo prima, essiccanti e disidratanti per le nostre mucose, ci sono diversi farmaci che sono poi comunque importanti per la nostra salute, ad esempio diuretici e antistaminici. Quindi farmaci di cui, se devo prenderli, non ne posso fare a meno nella mia farmacopea, li devo sempre usare. Se è allergico a qualcosa, eccetera, l'antistaminico devi prendere. Che cosa fanno però questi farmaci quando li uso? Rendono vischiosa la secrezione che scende dal rinofaringe e che noi abbiamo sempre, ma ne produciamo infatti da 200 a 500 millilitri al giorno ed è però una secrezione fluida, noi non ci accorgiamo che c'è perché innesca un circolo peristaltico a livello del rinofaringe, faringe viene deglutita senza che ce ne accorgiamo, secondo la deglutizione appunto automatica. E quando è che però ci accorgiamo invece che c'è questa secrezione? Quando appunto è molto vischiosa, quando siamo in uno stato di disidratazione, per cui non abbiamo quella discesa fisiologica ma abbiamo questa goccia che si ferma tra naso e gola oppure che cade per gravità sul piano delle corde vocali e ci dà appunto il bisogno di schiarire, certo. Non solo perché magari abbiamo il reflusso che ci secca tutto, ma magari anche solo perché stiamo prendendo dei farmaci che ci vanno a creare disidratazione, come antistaminici e diuretici. E questo è una cosa da stare attenti, soprattutto noi che facciamo questo mestiere, insomma, sì. Ma anche gli altri, dicevo, perché ho anche la mancanza di voce, le sto prendendo per questo motivo. Ma il cortisone stesso, se fatto in aerosol, lo avevamo già ricordato, e sul cortisone possiamo ricordarci che comunque il cortisone è anche un antidepressivo, quindi ha un effetto euforizzante. E l'effetto euforizzante, tra l'altro, è doppio, sia perché agisce a livello centrale proprio direttamente come effetto euforizzante, sia perché diminuisce la sensazione di fatica. Quindi c'è questo enorme problema che ci fa sopportare da un lato delle grandi situazioni di fatica anche a cuor leggero, quindi ci permette, quando lo usiamo in una situazione di performance, di andare incontro a delle situazioni di rischio in cui sarebbe spingi meglio magari uguale perché non senti magari il dolore. Esatto. Ma è doping, no? Il cortisone, immagino che sia doping. Di fatto è doping. Tra l'altro noi possiamo usarlo se dobbiamo recitare, ma sì, un atleta no. Un atleta no. Tra l'altro aumenta anche l'irritabilità della persona, che dal punto di vista delle mie capacità di autocontrollo, soprattutto in sei euforico e irritabile, sì, situazioni stressanti, ma te cazzi ugualmente, però ridi però sei in una situazione stressante perché c'è un'alta competitività, sì. Tipo sono in finalista al talent, sì. Posso benissimo perdere perché vado un po' fuori di testa, per cui non devi far cortisone in quel caso, sì, perché se possibile usiamoli eventualmente alla dose minima efficace, perché sennò poi anche il paziente, tra l'altro se lo prendi la sera poi non dormi, quindi se lo devi prendere la sera per la performance okay. Ma durante i giorni successivi o i giorni precedenti non la sera almeno, perché sennò poi rischio di non dormire la notte, se non riposo la notte il mio corpo non è sufficientemente è un effetto tonico, domino che insomma quindi che fa far male, a creare certo dei problemi. Quindi nel breve periodo, per ricapitolare, mi dà euforia, aumento della resistenza alla fatica, poi mi dà irritabilità, mi può dare insonnia, mi può dare anche irritazione gastrica, quindi attenzione per chi soffre di reflusso gastroesofageo. Esatto, prenderlo sotto nel controllo tempo, medico. Se lo prendo abitudinariamente, perché magari non canto troppo bene o non ho ancora economizzato la mia impostazione vocale nella massima resa con la minor spesa, nel lungo periodo mi può anche creare problemi più gravi come l'osteoporosi, alterazioni dell'equilibrio endocrino, indebolimento delle difese immunitarie. Sì, sul momento va bene, ma poi come tutte le cose paghi le conseguenze strada facendo. Esattamente. Insomma, conviene studiare un po' di più e capire come utilizzare la voce nel modo migliore. Poi tu, insomma, sei stato veramente con tutti, ho letto la tua biografia, a parte le persone che abbiamo sentito, le persone che abbiamo trovato disponibili in queste settimane, veramente hai tutti intorno, sei una sorta di dottore fidato, poi il dottore come lo psicologo, l'aiuto, che dici Franco, sto a posto? Andando a teatro, siamo già abbastanza insicuri come tipologia. Io frequento il teatro, io stavo a Roma, quindi frequento il teatro dell'opera dall'età di 6 anni, perché mi ero impallinato con l'opera, perché avevo uno zio melomane in Romagna che mi faceva sentire le opere. Melomane è uno che ama l'opera lirica, non ha nulla a che vedere con la malattia, con le mele o con altre malattie che riguardano la pelle. E quindi da bambino andavo nei camerini di nascosto intrufolandomi per pigliare. Tu hai mai cantato? Io non ho letto. No, ho cantato 2 o 3 anni in un coro polifonico a Santa Maria in Trastevere all'epoca dell'università. Polifonico, pensate. Ah dai, Santa Maria in Trastevere qua sotto io abito a Monteverde, insomma, sono sempre presente. E poi ti hanno detto vai a far dottore. Sì, vai a far dottore. Fai una cosa, curaci. Non vogliamo esatto. Altro, però sei immerso totalmente da sempre. Sì, perché questa passione per il teatro d'opera prima e poi ascoltando poi contemporaneamente Mina. Mi ricordo una cosa carinissima, c'era Betty Curtis, te la ricordi? Beh, io sì, purtroppo sì. Una notte della Befana, il 5 gennaio, cantava in Romagna e in un circolo dove andava sempre mio nonno, mi porta e lei vedendo sto bambino di 3 ero ancora più piccolo, 4-5 anni, mi piglia sulle ginocchia per giocare mentre tra una canzone e l'altra, e poi mi chiede che canzone vuoi che ti canti, e io che ero invaghito di Mina, Le mille bolle blu, maschera avventata, maschera avventata. È lì che ho avuto quello shock violento, esatto, che ti ha portato, che mi ha fatto scegliere la foniatria sulle braccia di Betty Curtis. Esatto. Gli hai detto mille bolle blu, niente male, insomma. Ingenuità. Va bene così. Franco, ti ringrazio ancora. Io spero di avere ancora la possibilità, perché abbiamo tantissime cose da dirci, ma succederà ancora, rispetto anche ai tuoi programmi di lavoro che sono importanti e intensi. Grazie. Grazie davvero per questa tua grandissima disponibilità. Ci ritroveremo ancora, perché una persona come te, insomma, ormai sei diventato un papà. Prima andai in scena, aspetta anche una mia telefonata, io ti parlo. Come sto? Okay. Come sto? Che prendo? Mi ciuccio la mela? Oppure la cosa interna degli agrumi, come si chiama? L'albedo, mi prendo un po' di albedo. Ma quanto bisogna prendere d'albedo per andare in scena? Tanto? No, una buccia, no, basta. Una buccia, vero? Madonna, mi hai dato un senso di insicurezza, caro mio, invece di aiutarmi mi hai creato altri problemi. I problemi invece voi, cari radioascoltatori, non me li create mai. Bene, abbiamo passato un'altra bella domenica insieme, spero di avervi fatto compagnia. Come sempre vi ringraziamo per volerci così bene, ringrazio tutti i collaboratori, tutti gli autori, tutti i fonici, tutta Milano. Grazie, a domenica prossima.